Radio 24 Reportage. Congo, la lotta per i minerali e il conflitto infinito, di Giampaolo Musumeci. Rubaia, un villaggio tra le colline verdi del Masisi, Nord Kivu, Repubblica Democratica del Congo. Una regione meravigliosa, oltre 2000 metri di quota, pascoli sterminati, greggi di mucche. Un villaggio con alcune migliaia di abitanti, con un vicino campo sfollati di circa 2000 persone, in fuga dai continui combattimenti della regione. Tutti qui sono più o meno coinvolti direttamente nel lavoro nelle miniere. Miniere che sono di due tipi. Ci sono i siti lungo il fiume e ci sono i siti sulle colline. Lungo il fiume, appena fuori dall'abitato, li vedi lavorare a gruppetti di 5 o 6 costruire piccole dighe per estrarre la sabbia. E così, dall'alba al tramonto. Rubaia è un villaggio dall'atmosfera tutta diversa rispetto ad altri villaggi del Nord Kivu o anche rispetto alla capitale Goma. Qui la gente guadagna molto di più della media. Il mercato è florido, i piccoli ristoranti sono pieni di gente che al termine della giornata mangiano spiedini di capra e bevono birra Primus o Mutzig. La città è ricca e quasi tutti qui vogliono fare i minatori. Ascoltate il racconto di Etienne Bashorimanza, 23 anni, che incontro una sera passeggiando tra le capanne di Rubaia. J'ai fait la pédagogie appliquée, je suis gradué en maths physique. À Goma? Non plus, à l'ISP Machung, au niveau de Minova. À Minova? Oui. Mais en même temps, vous rêvez d'être closier, quoi? Mais comment? Bien sûr. Ho studiato pedagogia, poi mi sono laureato in matematica e fisica all'Università di Minova, racconta Etienne. Ora mi sto preparando a intraprendere il mestiere di minatore nei prossimi giorni. Lo faccio perché non c'è più lavoro. Il lavoro di minatore, lo so, è molto duro, ma io sono giovane e ho forze necessarie e sufficienti. Mi aspetto di guadagnare parecchio, sì. Potrei insegnare, ma trovo che si guadagni poco. Allora preferisco fare il minatore per avere soldi e garantire una vita futura a quella che sarà la mia famiglia futura. Je trouve que dans l'enseignement rien n'y est. Et pour ce faire, je me dis maintenant que pour le moment qu'il fallait que j'aille creuser pour que je trouve de l'argent. Sinon, je suis encore trop jeune, je dois toujours chercher de l'argent pour garantir ma future famille. C'est ça. Ça va bien. Comment allez-vous? Detta così sembra facile, solo che da un lato il lavoro è assai duro, anche come ricorda Etienne, è duro e usurante, e dall'altro si assiste a un crescente abbandono scolastico di studenti, anche molto molto giovani, come mi racconta Boniface Bituaiki, un maestro di scuola di Rubaia a cui chiedo quanti alunni gli sono rimasti. J'ai 400 élèves, mais malheureusement, je reste avec 302. Siamo partiti da 400 studenti, racconta, ma purtroppo siamo rimasti con 302. Molti dei miei bambini che lasciano la scuola vanno a lavorare nelle miniere. Vengono attirati e sfruttati dai padroni, che regalano loro delle caramelle, dei biscotti. E così i bambini decidono di abbandonare la scuola. E la nostra paura è che se si continua così, non ci saranno più intellettuali in questa zona. Chi leur donne des bonbons, chi leur donne des biscuits. E attraverso tutto cela ils abbandonnent massivement l'école. E nous avons peur que prochainement nous n'aurons plus d'intellectuels dans notre milieu. Mariam et Amadou, bonjour, ça va bien? Comment allez-vous? Decido di recarmi al fiume, dove alcune decine di minatori setacciano la sabbia. Sentite la voce di Jean-Paul Genda, che lavora sul fiume con tutta la sua famiglia. Gina Laku. Gina Ngenda Hayo Polo. Ngenda Hayo Polo. Gina Chimbaka. Gina Chimbaka e Kinyangara. Io sono un minatore, racconta. Lavoro in una galleria Ed è questo ciò che faccio. Il luogo dove lavoro viene chiamato Flat Mumba. Noi minatori siamo raggruppati in comitati ed è il comitato stesso che cerca i clienti che poi comprano i minerali. È un buon lavoro perché ci permette veramente di guadagnarci da vivere. Possiamo pagare le tasse scolastiche per i nostri figli. Siamo davvero contenti di avere questo impiego. Solo che ci sono dei momenti in cui c'è meno lavoro da svolgere. Ed è questo, per esempio, il problema che abbiamo. Ora, ad esempio, la pioggia sta diminuendo. Adesso allora possiamo aprire nuovi cantieri e ricominciare a lavorare. Il minerale che estraiamo qui è il manganese, che proviene dalle colline. Noi non sappiamo che cosa producono con il manganese, siamo solo dei minatori, non facciamo altro che lavorare. E poi sono altri che vengono a prendere il minerale che estraiamo qui. Infine chiedo al minatore se abbia visto militari, ribelli, e lui risponde: qui non sono arrivati i militari ribelli di M23, non ce ne sono, nemmeno altri militari. Infine svela la logica di mercato dei minerali. Sono i compratori, racconta, che propongono il prezzo e da un momento all'altro possono dirci il prezzo del prodotto si è abbassato e gli danno il prezzo che vogliono loro. Dunque, questa è una cosa che non va nel campo. Un chilo di manganese corrisponde di solito a $10. Una persona può estrarre 2 o 3 chili al giorno di minerale. La quantità quindi può variare. I siti lungo il fiume sono solo una parte del lavoro attorno a Rubaia. Mi sveglio così all'alba e accompagno un gruppo di minatori sulla collina che sovrasta la città. Voglio vedere il coltan, il prezioso minerale indispensabile per i prodotti tecnologici. Quel coltan che, secondo alcuni analisti, è la causa di tutte le sventure del Kivu. Secondo molti osservatori, una delle cause proprio del proliferare dei gruppi armati, ve ne sarebbero almeno 40, deriva dalla ricchezza del sottosuolo congolese e dalla lotta per il predominio sul territorio. Dopo 2 ore di marcia, lungo una ripidissima salita, arrivo in cima e lì il cantiere è in bella vista. A occhio e croce vi saranno 2000 minatori. Non c'è traccia dei militari, come prescrive la legge, ma quello a cui assisto è un teatrino realizzato apposta per me. Un funzionario dei servizi di informazione congolesi mi ha fermato a metà salita e ha parlato via radio con qualcuno che era già sulla collina. Il mio interprete parla anche il Kinyarwanda e ha compreso la conversazione, che suonava più o meno così. Sì, stanno salendo, c'è il giornalista bianco con loro. Non deve vedere nessuno di voi, vedete di sparire in fretta. Il funzionario stava parlando con alcuni Mai Mai Niatura, un gruppo armato appena integrato nell'esercito governativo regolare da pochi mesi e che controlla le colline e le miniere attorno a Rubaia. Si tratta del reggimento Mai Mai Tango 4 del colonnello Abarugira. Sono loro a controllare l'area e sono loro a imporre le tasse. Sulla sommità della collina, il presidente dei minatori, o meglio della cooperativa dei minatori, Laurent Cité, afferra un pugno di terra appena raccolta dalle viscere della collina e spiega: in questa sabbia bianca c'è un misto di manganese e coltan insieme. È un materiale abbastanza prezioso, sì, ma dobbiamo lavorarlo e dobbiamo trasportare questa sabbia fin giù al fiume per pulirlo. Più o meno qui lavorano 250 minatori. Si lavora tutti i giorni, ma i lavoratori possono riposare la domenica o il sabato, secondo la loro preferenza. Quelli che invece vedi passare con il sacco sulle spalle sono i portatori, che fanno su e giù con il minerale. Di solito qui si lavora dalle 7 del mattino alle 5 del pomeriggio. Oppure a volte non si lavora proprio. La cooperativa ha prenotato alcune decine di portatori dal campo sfollati di Rubaia. che si sono fatti 2 ore di marcia in salita e ora, sotto il sole cocente delle 10 del mattino, si sentono dire che il lavoro non c'è più. Così finisce in rissa e a bastonate. Il lavoro su questa collina è assai pericoloso, risse a parte. I crolli delle gallerie sono frequenti. Le cadute da sentieri sottili e fragili che si inerpicano fino alle cave non si contano. Si suda tanto e si guadagna non quanto si dovrebbe. Altri attori, più grandi di quelli che avete sentito, hanno le loro mani su queste colline. I gruppi armati presenti, innanzitutto, che però non sempre sfruttano direttamente la miniera, non sempre esportano a loro stessi il prezioso coltan. Il traffico, infatti, richiede una logistica, dei contatti. Come fanno allora i Mai Mai a guadagnare sul coltan e sul manganese? Istituendo checkpoint mobili e chiedendo 1.000 franchi, cioè un dollaro, a ogni persona che passa. Se poi a transitare è un Land Rover con il suo carico di sabbia, allora molto, molto di più. È il commercio stesso di minerale e il passaggio di persone che riempie le loro tasche. Un posto fiorente come Rubaia, dove c'è giro, c'è commercio, dove la gente va e viene, è l'ideale per l'imposizione di tasse aggiuntive. Con in più la formidabile molla del Kalashnikov puntato, se serve, e con l'assenza del potere centrale del governo di Kinshasa. Per dare un'idea di quanto denaro giri, vi do alcuni numeri. Un chilogramma di sabbia grezzo a Rubaia, grezzo vuol dire che contiene sia manganese che coltan, magari ferro, viene commercializzata a $10 al chilo. Quando riesce ad arrivare a Goma, la capitale del Nord Kivu, passa a $70 al chilo. Passato il confine ruandese, si arriva a $105 al chilo, ma si parla sempre comunque di prodotto grezzo. Ci sono agenti ruandesi capaci di far passare il minerale anche in grande quantità, attraverso la frontiera. Anche se i corridoi attraverso foreste o a volte anche con voli di piccoli aerei sono sempre utilizzati. Da 25 kg di prodotto grezzo si ottiene 1 kg di prodotto fine. Il valore è di almeno $500 al chilo se parliamo di coltan. La ricchezza del sottosuolo congolese è al tempo stesso una risorsa e per il momento però la sua grande sventura. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.